Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra Rassegna Stampa Europea. Come forse potete immaginare, torniamo a occuparci di Brexit, anche se sappiamo che anche con l'insediamento della nuova premier britannica Theresa May i tempi si sono ufficialmente allungati. La nuova premier appunto ha proprio detto chiaramente che non ha alcuna intenzione di chiedere a breve l'attivazione del famoso articolo 50, che è quello per l'uscita ufficiale di un paese dell'Unione Europea, però si continua e si continuerà da qui a quando sarà probabilmente la fine dell'anno a parlare delle conseguenze di questo voto del 23 giugno in Gran Bretagna, nel Regno Unito, scusatemi. E allora vi segnalo un editoriale del Guardian che trovate su Internazionale, che si intitola Cari europei, e cerca un po' di spiegare perché effettivamente per noi, per molti europei, è stata una sorpresa. In Italia sicuramente ci sono stati innumerevoli articoli su questo, è stata una sorpresa questo voto, lo è stato forse in parte anche nel Regno Unito, ma naturalmente non altrettanto. Allora in questo articolo appunto il Guardian cerca di spiegare agli europei quali possono essere le ragioni e soprattutto quali possono essere le pericolose conseguenze per gli altri paesi europei, spinte anti-europeiste che stiamo vedendo in moltissimi paesi e come fare magari per arginarle. Leggo la parte finale. Dopo essere uscito dall'Unione, il Regno Unito non può e non deve aspettarsi di rientrarci presto. Sarebbe politicamente pericoloso e richiederebbe grande generosità da parte vostra, cioè da parte di noi europei, ai quali è idealmente indirizzata questa lettera. Quelli di noi che usciranno a malincuore sperano di poter un giorno rientrare. Per favore, salutateci con rimpianto, non con rancore. E per il bene di tutti, non chiudete la porta a chiave. Tra l'altro su questa questione di uscire, entrare, su internet trovate tantissime vignette. C'è anche uno dei vignettisti più famosi della Gran Bretagna, che è l'autore della striscia Simon's Cat, che ha modificato un suo famoso mini film in cui il gatto, come sanno tutti i proprietari di gatti, chiede di entrare, poi non entra, chiede di entrare, poi non entra, quando la porta è chiusa di nuovo chiede di entrare. È stato modificato, al gatto è stata messa sul petto la bandiera dell'Union Jack e al suo padrone sulla schiena la bandiera dell'Unione Europea. Sempre a proposito della questione Brexit, vi segnalo la column che tiene James Surowiecki sul New Yorker, e anche in questo caso la traduce Internazionale, poi quella originale tra l'altro è sempre corredata da una bellissima illustrazione di Christoph Neiman, che è uno dei più importanti illustratori americani. Qui il titolo è "Il Regno Unito ha bisogno dell'Europa. I sostenitori dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sono convinti che Bruxelles ammetterà che lo status quo conviene a tutti, ma è un ragionamento ingenuo". E anche in questo caso vi segnalo l'ultima parte. Anche se l'intransigenza nei confronti del Regno Unito danneggerà l'economia del continente, potrebbe essere un prezzo ragionevole da pagare per mostrare agli euroscettici che uscire dall'Unione ha delle conseguenze. I britannici hanno deciso di anteporre le considerazioni ideologiche a quelle economiche. Non potranno certo lamentarsi se l'Europa farà lo stesso. E a proposito dei sostenitori del Remain, perché ricordiamolo sempre, è vero, hanno vinto i sostenitori del Leave, ma con una percentuale di scarto molto bassa, e ci sono quindi poco meno della metà delle persone che hanno votato, e sappiamo che è stata una percentuale altissima degli aventi diritto, cioè circa il 70%, che invece volevano restare, Remain. E anche per questo ci racconta sul sito Vox Europe Giampaolo Accardo, che è il direttore di questo sito che citiamo spesso. È nato un settimanale in Gran Bretagna, è nato un settimanale per gli affezionati all'Europa, si chiama The New European, e ci dice che è stata veramente una nascita a tempo di record, perché in solo 10 giorni un gruppo di giornalisti affezionati all'Unione Europea ha lanciato una rivista euroentusiasta dedicata a quella quasi metà dei britannici che non ha votato per la Brexit. Il nuovo settimanale è apparso nelle edicole britanniche l'8 luglio scorso, quindi venerdì scorso, e si chiama appunto The New European. Benché il nome evochi diverse pubblicazioni e think tank brussellesi, punta a quel 48% di persone che hanno votato perché il Regno Unito rimanga nell'Unione Europea. Cambiamo però un po' argomento, perché naturalmente sono tantissime le questioni che poi rimangono in secondo piano quando succedono eventi come quello della Brexit, e che però continuano il loro corso anche quando si spengono un po' i riflettori dei media. Per esempio la grande questione della riforma del lavoro in Francia, che sapete che viene un po' chiamato il Jobs Act alla francese, in realtà il suo nome è Loi de Travail, cioè la legge del lavoro. Ci sono state tantissime proteste che hanno anche causato numerosi problemi durante i primi giorni degli europei di calcio. Ora su Mediapart Laurent Mauduit ci spiega che questa riforma del lavoro forse è stata presa così male anche perché la Francia, come del resto l'Italia e altri paesi, ha pagato un prezzo altissimo per la crisi. I francesi sono più poveri, si intitola questo articolo. Tra l'altro proprio giovedì sono usciti i dati sulla povertà anche in Italia e sono impressionanti anche quelli sull'Italia. Poi è chiaro che bisogna vedere cosa viene definita soglia di povertà, quanto conta poi magari quel welfare che non è ufficiale, però sta di fatto che questi numeri sono in crescita. E tra il 2008 e il 2013, cioè negli anni più duri della crisi mondiale, diciamo, perché naturalmente il 2008 viene preso come l'anno dell'inizio, perché in settembre ci fu il crack di Lehman Brothers negli Stati Uniti e quello viene simbolicamente, viene di fatto indicato più che simbolicamente come l'inizio della grande crisi economica e finanziaria in cui poi è entrato tutto il mondo. Ecco, in Francia le disuguaglianze e la povertà sono aumentate nettamente e questo, ripeto, probabilmente è una delle cause di questa reazione così contraria alla riforma del lavoro. Con l'imponente deregolamentazione del lavoro, la ripresa potrebbe essere accompagnata da un altrettanto imponente sviluppo della precarietà, che è un problema in Italia, ma non solo. Vi segnalo, a proposito di voti e di referendum e di elezioni che avverranno nel prossimo futuro, quella che ci sarà in Ungheria, un referendum da tenere molto sotto controllo perché viene definito, per esempio, da El Mundo, un referendum xenofobo. Infatti in Ungheria il 2 ottobre si terrà un referendum per decidere se accettare il sistema di quote voluto dalla Commissione europea per ricollocare 160.000 richiedenti asilo nei paesi comunitari. La consultazione è stata annunciata il 5 luglio. Fortemente contrario al progetto delle quote, il primo ministro nazionalista Viktor Orban, che, di cui abbiamo parlato in passato, che è appunto di un partito ultranazionalista di potremmo dire di destra, ma appunto di ultradestra quasi, sta sfruttando l'onda lunga della Brexit per far passare le sue politiche anti-europee e autoritarie. A proposito di paesi dove magari succedono delle cose che ci sfuggono o perché non abbiamo le antenne abbastanza alzate o perché siamo presi da questioni più vicine a noi, ecco un altro interessante reportage, in questo caso a Hora Semanal di Madrid, anche in questo caso la traduzione integrale la trovate su voxeurope.eu, riguarda le proteste nelle ex repubbliche jugoslave, quelli che vengono chiamati gli indignados dei Balcani, un po' perché sono paesi che, pur avendo avuto sicuramente dei miglioramenti rispetto a quando facevano parte del blocco sovietico, sono comunque paesi ancora in grande difficoltà. Pensate anche a quanta immigrazione c'è da lì. E un po' perché, spiega in questo reportage il giornalista spagnolo, c'è un livello di corruzione altissimo e quindi a un certo punto anche le popolazioni forse più remissive o rassegnate, forse anche prendendo spunto da quello che si vede grazie anche a quanta informazione può circolare su internet, forse a un certo punto le persone veramente si indignano. A proposito invece di Italia, vi segnalo due articoli, uno dalla Süddeutsche Zeitung e l'altro da Handelsblatt. Süddeutsche Zeitung è uno dei più importanti quotidiani tedeschi, Handelsblatt è un po' il Sole 24 Ore tedesco, e in questo caso hanno parlato della questione delle banche italiane, della crisi delle banche italiane, naturalmente soprattutto quella di MPS Monte dei Paschi. Per il quotidiano di Monaco, cioè la Deutsche Zeitung, la velocità e un'azione di fondo sono più importanti di una rigida interpretazione delle regole. Bisogna affrontare il fuoco quando è ancora piccolo, qualunque cosa faccia Renzi non deve essere riduttiva, altrimenti la crisi prima o poi si ripresenterà. Invece è più sfumata la posizione di Handelsblatt, che al tema ha dedicato un'apertura di pagina e poi anche un approfondimento all'interno qualche giorno fa, intrecciando la situazione economica e quella politica, cioè tra una che comunque noi continuiamo a avere una delle più basse crescite in Europa, c'è questo rischio populista imminente, finora un po' arginato, come dicono molti commentatori, dal Movimento 5 Stelle, ma che comunque persiste. A proposito di 5 Stelle, Le Figaro, la settimana scorsa era stato Le Monde, questa settimana è Le Figaro che si occupa di Virginia Raggi e cerca di spiegare ai francesi che, per quanto eclatante è la vittoria dell'esponente del Movimento 5 Stelle diventata sindaco di Roma, appunto per quanto eclatante sia stata questa vittoria, in realtà a distanza di 3 settimane sono emersi tantissimi problemi che riguardano soprattutto, appare dall'esterno, questo è quello che scrive Le Figaro, sono emersi tantissimi problemi all'interno del Movimento 5 Stelle, che quindi diventa molto simile a tutti gli altri. Era però l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.